Europa è Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. L'UE mente quando sostiene che la riforma della giustizia in Polonia minaccia lo Stato di diritto. La sua decisione di avviare l'iter per le sanzioni contro Varsavia è ipocrita. Questo il commento, mi viene da dire non natalizio, ma era inevitabile, del presidente polacco Duda, che replica dunque alla decisione della Commissione europea di fare partire questo articolo 7. Allora, intanto, cari amici, cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, dalla redazione di Radio 24, da Filippo Aureggi in regia. Partiamo dunque sentendo Frans Timmermans. We are doing this for Poland. We are doing this for Polish. Lo stiamo facendo per la Polonia, lo stiamo facendo per i polacchi. Così Timmermans ha parlato questa settimana quando ha annunciato a Bruxelles la decisione della Commissione di attivare la procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato UE contro la Polonia per violazione dello Stato di diritto. L'annuncio è stato appunto del primo vicepresidente, quindi nelle massime autorità, e soprattutto è stata la prima volta che è stato utilizzato, che viene utilizzato quella che addirittura veniva chiamata così un po' scherzosamente la bomba atomica dell'Unione Europea. Perché la bomba atomica? Perché una procedura di questo tipo può arrivare addirittura, non ipoteticamente, nel senso che questo sarebbe il punto di arrivo finale, alla sospensione dei diritti di voto di uno Stato peraltro di questa grandezza come la Polonia, dunque al centro e leader dei paesi di Visegrad. Perché questo procedimento potrebbe essere avviato? Dico potrebbe perché dovranno intervenire capi di Stato e di governi per procedere o meno, perché Varsavia è accusato di avere messo di fatto in discussione, in crisi, il principio della separazione dei poteri essenziali per la democrazia. E giovedì Varsavia è stata la destinazione della premier britannica Theresa May, che, schierandosi nettamente con la parte polacca in questo contenzioso senza precedenti, ha probabilmente fornito un anticipo della fase 2 della trattativa sulla Brexit. Allora sentiamo su questo Leonardo Maisano. Nel periglioso viaggio verso la Brexit i simboli contano più dei fatti, la forma più della sostanza. Va letta in questa chiave la notizia che Londra intende tornare allo storico passaporto blu dal sapore imperiale, abbandonando con l'Unione anche il bordeaux del documento comune europeo. Spigolature di questi giorni festivi che a Downing Street sembra vogliano celebrare adeguandosi al motto divide et impera. Theresa May, nella sua missione in Polonia, ha già offerto un assaggio della strategia che Londra adotterà nella seconda fase del negoziato anglo-europeo. A Varsavia ha mostrato di condividere la linea del governo ultraconservatore polacco in rotta di collisione con Bruxelles per la piega antidemocratica che sta imboccando. Affari interni di Varsavia, ha scandito Theresa May, in cambio apparente di poche sentite parole del premier polacco, che si è detto favorevole a intese commerciali elastiche e ad hoc fra Londra e Bruxelles. Quello cioè che la Gran Bretagna chiede e la maggior parte dei partners non intende concedere. La strategia è chiara, Downing Street spera di spaccare l'Unione per portare a casa intese economico-commerciali migliori. Se ci riuscirà, per l'Unione Europea la Brexit si risolverà in un incubo, prologo a analoghe richieste di Europa alla carta, che resta un inaccettabile azzardo. E questo era Leonardo Maisano da Londra. Un'Europa dunque divisa tra stati, divisa tra Bruxelles e Varsavia, con una Brexit in corso e poi con una Spagna che fa i conti al suo interno, ma naturalmente con delle implicazioni importanti sul tema dell'Unione Europea. Tutto questo e ieri mattina l'esito del voto a Barcellona. Sentiamo il servizio. La festa esplode nella sede di Junts per Catalunya, la lista del presidente deposto Puigdemont, poco prima di mezzanotte, quando arriva la certezza della vittoria. In un'elezione storica i catalani bocciano il commissariamento della comunità da parte del governo Rajoy, rifilando al PP una sconfitta umiliante. L'elezione ha due vincitori, quello effettivo è il blocco indipendentista, che dopo tre mesi di passione conferma la sua maggioranza assoluta in Parlamento con 70 seggi e una maggioranza relativa nei consensi. La vera sorpresa è l'exploit della lista Puigdemont, che con 30 34 deputati diventa la prima forza indipendentista davanti ai favoriti di Esquerra Repubblicana. L'altro vincitore è il partito unionista di Ciudadanos, che col 25% porta per la prima volta una forza costituzionalista davanti a tutti. Vittoria di Pirro, però, perché bilanciata in negativo dal crollo del PP sceso a 3 seggi. Gli indipendentisti non possono parlare a nome di tutti, tuona la leader di Ciudadanos Arrimadas, sapendo però che non sarà lei la presidente catalana. Sarà ancora Puigdemont, su cui pende un ordine d'arresto in Spagna, ma che dal Belgio sfida Madrid. La Repubblica Catalana ha sconfitto la monarchia dell'articolo 155, che prendano nota. Al microfono di Radio 24 il ministro catalano deposto Turull non riesce a trattenere la sua gioia. È incredibile la sconfitta della repressione e la riaffermazione del referendum del 1 ottobre, dice Turull. Da oggi la questione catalana torna sul tavolo europeo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona. E sul tavolo europeo all'inizio di questa settimana c'è stato anche qualcosa che davvero pensavamo facesse ormai parte della storia, ed è accaduto quando il nuovo governo di Vienna ha fatto una dichiarazione sulla possibilità di offrire il passaporto austriaco a tutti i sudtirolesi cittadini italiani. Una vicenda che ovviamente ha evocato un tempo in cui il Brennero era un confine fisico e anzi combattuto, e non quel passaggio tra due stati dell'Unione. Su questo aspetto, su questa vicenda, abbiamo chiesto un parere al professor Hans Eis, storico sudtirolese, da oltre un decennio in consiglio provinciale a Bolzano, nelle file dei Verdi. Sì, in un certo senso il nazionalismo si riafferma anche in Austria. Col governo di centrodestra si è affermato uno spirito di Austria first, l'Austria come prima, e ovviamente anche nelle regioni di confine spesso si alzano queste voci. Adesso anche con le paure della migrazione e dei rifugiati, ovviamente si tende proprio a cercare di esasperare, diciamo, l'autonomia, se no anche, diciamo, la volontà di passare a un momento secessionistico. Vedremo anche in questi giorni quale sarà l'esito del voto in Catalogna, e pertanto siamo veramente nuovamente tornati a una fase dove queste problematiche creano ovviamente scompiglio, e anche, diciamo, la questione del passaporto è subito entrata in queste coordinate. I nuovi nazionalismi, dunque, oppure i vecchi nazionalismi che tornano per il 2018, che però sarà anche l'anno della cultura. Allora adesso ci rilassiamo un po' invece con il racconto di questo intenso programma. Il 2018 sarà l'anno europeo del patrimonio culturale. È stato presentato ufficialmente a Milano il 7 dicembre scorso durante il Forum Europeo della Cultura. 3 gli obiettivi principali: che i progetti messi in campo ricadano nell'Agenda Europea della Cultura 2019-2021, che la cultura sia un asse strategico di sviluppo nella programmazione pluriennale 2019-2027 e che si passi dallo 0,15% del budget europeo per gli investimenti in cultura ad almeno l'1%. Ma che cos'è il 2018, anno europeo del patrimonio culturale? Ce lo spiega l'europarlamentare Silvia Costa. Finalmente siamo riusciti noi della Commissione Cultura, devo dire con un grande aiuto anche della presidenza italiana nel 2014 e altri governi, a convincere la Commissione Europea, che non aveva messo la parola cultura in nessuna delle 10 priorità di Juncker, che di fronte alle grandi sfide che oggi ha l'Europa, quella di essere addirittura messa in discussione come identità e come ruolo nel mondo, quella di dover affrontare le migrazioni, quella del terrorismo e soprattutto quella delle paure che stanno alimentate da populismi, nazionalismi, che fanno chiudere nel picco, nell'illusione del sovranismo. Ecco, abbiamo detto, guardate, senza la dimensione culturale l'Europa non va da nessuna parte, non riprende fiducia in se stesso, non parla più ai propri giovani e soprattutto non capisce che il patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale è una delle più straordinarie risorse economiche, di nuova occupazione, di legame sociale, di inclusione, ma anche di esportazione. Noi i prodotti culturali sono oggi al secondo posto nelle esportazioni fra l'Europa e il resto del mondo, di turismo culturale. L'Europa oggi è la prima destinazione del turismo culturale. Tra l'altro in questi ultimi giorni è emerso che gli americani come prima destinazione scelgono l'Italia, ci fa molto piacere, ma il turismo va bene soprattutto perché se è culturale, nel senso che tenga conto di questa dimensione. Un asset importante è proprio il turismo culturale. Allora, quanto pesa nella dimensione dimensione culturale europea. Il turismo culturale rappresenta oggi il 40% del turismo e spesso è indotto anche da che cosa? Dalle nostre produzioni culturali, dai film, dalle fiction e dalla immagine che dell'Europa si ha nel mondo dei vari paesi. Non è in contrasto tra l'identità culturale europea e di valorizzare le diversità culturali e linguistiche dell'Europa, purché le si metta in dialogo, purché si faccia dell'Europa un grande spazio culturale europeo, purché si dia senso alla doppia cittadinanza che noi abbiamo, italiana e di cittadini europei. Grazie dunque anche a Silvia Bernardi, alla sua ospite Silvia Costa. Adesso aggiornamenti perché in viaggio. Europa, Europa. Attenzione al rischio falsi per giocattoli e gadget natalizi contraffatti. Sono numeri importanti, numeri che addirittura parlano in Italia tra il 2008 e il 2016, in pratica 2100 sequestri di merci complessivi, 48 milioni di pezzi, oltre 200 milioni di valore. Ma l'Unione Europea è consapevole, perché chiaramente non è un fenomeno che riguarda solo l'Italia. Sentiamo il servizio. Nell'Unione Europea un giocattolo su tre e circa la metà dei dispositivi elettronici non rispettano le regole di sicurezza. Un fenomeno questo che rende preoccupante la libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico. Per questo la Commissione è corsa ai ripari e ha presentato due proposte di regolamento per facilitare la vendita di prodotti tra i 28 paesi, rafforzare i controlli e assicurare gli stessi standard per ristabilire la fiducia dei consumatori. Il primo regolamento riguarda il riconoscimento reciproco delle merci con procedure di autorizzazione più veloci. L'altro provvedimento punta invece a promuovere una maggiore collaborazione tra l'autorità di vigilanza del mercato nei vari paesi e a intensificare lo scambio di informazioni sui prodotti illegali e sulle indagini in corso. Per le associazioni di consumatori europee tutto questo però non basta per garantire la sicurezza dei prodotti venduti nell'Unione. Ivo Tarantino, responsabile delle relazioni esterne di Altro Consumo, quali sono le vostre perplessità? Altro Consumo ha il proprio punto di forza nei test che effettua sui prodotti. Ogni anno testiamo centinaia, migliaia di prodotti e quello che constatiamo è il fatto che i prodotti marchiati col marchio CE spesso succede che non siano corrispondenti ai requisiti di sicurezza che sono richiesti. C'era stato un tentativo di trasformazione del regolamento che riguarda la sicurezza dei prodotti che purtroppo si è arenato. Riteniamo, dal nostro punto di vista, che la marchiatura CE non fornisca informazioni utili ai consumatori sulla sicurezza dei prodotti. È una normativa che serve semplicemente a rispondere a dei requisiti di tipo legislativo interni all'Unione Europea per il traffico dei prodotti, e a nostro avviso il marchio CE, data la confusione che generano i consumatori, non ha bisogno di essere sulle confezioni dei prodotti. Quali correttivi proponete? Noi quello che proponiamo è, prima di tutto, una sorveglianza più rigorosa sui beni venduti anche online, la creazione di un database degli incidenti che avvengono su scala europea, un maggior coinvolgimento di tutte le organizzazioni dei consumatori nel futuro network europeo per la sorveglianza del mercato e, come ho già detto, eliminare la marcatura CE dal packaging dei prodotti e inserirlo all'interno della documentazione tecnica che deve essere accessibile alle autorità di vigilanza del mercato, ma che non fornisce alcuna informazione utile ai consumatori per le loro scelte. Le due bozze di regolamento approderanno ora sul tavolo del Consiglio e dell'Europarlamento, che potranno modificare il testo. Una volta adottate, entreranno subito in vigore. Grazie dunque anche a Chiara Bussi. Adesso andiamo un po' in una conclusione per tirare un po' le somme anche di quest'annata. Abbiamo chiesto a Riccardo Alcaro, che è coordinatore delle ricerche responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali, quali sono secondo lui i tre nodi che il 2017 lascia, di fatto consegna al 2018. Lo sentiamo. Allora, se dovessi fare una classifica, diciamo così, delle tre questioni più controverse che alimentano maggiori contrasti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, direi che al primo posto c'è senz'altro quella dell'immigrazione, seguita successivamente da questa annosissima e mai del tutto risolta questione di come riformare la governance dell'Eurozona e come distante terzo probabilmente le relazioni con la Russia, anche se in prospettiva storica, diciamo, oggi sono gli Stati europei sono un po' più vicini gli uni agli altri di quanto fossero una decina d'anni fa o anche semplicemente prima della